Roberto Di Varese, cambia, metti sulla zanzara, vai là, veloce anche, vai sulla zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì, non ascoltarmi, te lo ordino, è un mio diritto, ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te, ho il pieno diritto, vai sulla zanzara, vai! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. C'è un assassino e fruga nel tuo cuore. L'assassino ciò che vuole lo sa, non ha un aspetto definito e un nome, sicuro attenterà alla tua felicità, c'è un assassino dietro le tue spalle. Oh, è tanto tempo che non risentivo la parola assassino. Questa è la splendida voce di Renato Zero, questa invece è la voce di Berlusconi che dà dell'assassino a Grillo, dopo avergli detto che è come Hitler, che se uno va a leggere i discorsi di Hitler nel 32 o nel 33 e ricalcano esattamente quello che dice Grillo adesso, dopo avergli dato Pol Pot eccetera eccetera, adesso dice assassino rimbangando una vecchia storia eccetera eccetera, eccetera. Lui è uno esperto sul non entrare in prigione perché con colpa ha fatto morire, ha ucciso tre amici, è entrato dentro una strada dove c'era un cartello che avvisava strada impraticabile, lastre di ghiaccio, e lui è riuscito a uscire dalla sua auto che è precipitata e sono morte tre persone. È stato condannato per omicidio plurimo colposo a 14 mesi e quindi è un pregiudicato, è un assassino e quindi di prigione la scampata non dovrebbe tornare su argomenti del genere. Sai che io ero un sorcino, Parenzo? Beh, c'è anch'io, lo sono. Ma tuttora. Che tu, sorcino? Avevi 3 anni quando c'erano i concerti di Grillo, ma che cazzo dici? Dai, come su. Di Grillo, di Renato sì, Zero. Sì, di Renato Zero, scusami, ormai mi ero confuso. Il triangolo, no, non lo avevo. Ma avevi 3 anni, ma non andavi ai concerti? Io andavo ai concerti a 15 anni, a 16 anni, ai concerti ma con l'accendino, dai. Ma tu ai concerti, non hai mai speso una lira, figurati. Ma che mamma mia, che tristezza. Non hai mai speso un euro. Mi fai veramente tristezza, lo sai, mi fai veramente tristezza. Sai dire, dici sempre gratis, le stesse, no, pagavo, dici allora sempre dai. Le stesse cose, dici pagavi. Sempre le stesse cose, pagavi. le stesse tristi cose, è un personaggio veramente di una tristezza infinita, guarda. Spalle. Che orrore! I sogni che fai. Lui non ti Berlusconi certo dice che Grillo veniva pagato in nero, è l'inchiesta degli ultimi giorni del giornale. Grillo è conosciuto in tutto il mondo dello spettacolo come uno che non faceva spettacolo se quanto a lui dovuto non era pagato in gran parte in nero. L'ha denunciato un coraggioso imprenditore, mi sembra che si chiami Liquori, tutti i giornali hanno fatto finta di non sentire, credo che solo un giornale abbia dato questa notizia, ma ce ne sono molti altri. Solo un giornale, che poi è il giornale di proprietà della famiglia Berlusconi, l'imprenditore si chiama Liguori, non Liquori, che dice che Grillo veniva abitualmente pagato in nero, poi ovviamente siccome Grillo l'ha querelato dovrà portare le prove in tribunale. Per carità, non ci addentriamo in questa vicenda perché anche noi abbiamo ricevuto una volta una telefonata di uno che diceva di aver pagato Grillo in nero, ne è nata un contenzioso giudiziario che ancora dura. Addirittura col sindacato, figurati. La frase clou però è quella dell'intervista della BBC a Berlusconi che gli chiede: ma lei ha mai pronunciato la parola culona inchiavabile? Senti in inglese. Do you have a particular problem with Angela Merkel? Is it true you called her an unfuckable lardass? Unfuckable? silenzio di Berlusconi, che gesticola. Unfuckable. Com'è? Lord us. Lard us. Vabbè, però il clou è stato ieri sera, con grande ascolto. Vespa Grillo, se c'era un duello l'ha vinto sicuramente Vespa, dall'alto della sua professionalità ha stuzzicato al momento giusto Grillo, quando gli chiedeva a un certo punto delle cose lui sviava, parlava di altro, però poi bisogna vedere, magari ha portato, come dice Mentana, centinaia di migliaia di voti a Grillo il solo fatto di essere lì, era un po' spaesato, guardava continuamente il pubblico perché ha bisogno del pubblico. No, quella era una scelta. Ma no, ma perché fa così, cioè fa così, no, ha bisogno di parlare col pubblico, ha bisogno di parlare col pubblico. Era una scelta sua proprio di non riconoscere Vespa come interlocutore, guardare. Ma quando mai? Ma che c'entra? È abituato a parlare col pubblico e non con una persona, dai, su. Il fascismo l'ha inventato tuo padre. Qui ha ripreso una roba che circola, sapete, no? Sì, della parentela. Della parentela tra Mussolini e Vespa, qualcuno dice addirittura il figlio di Mussolini. Una stupidaggine. Si è formato il partito Milano di Hitler, Stalin, a me. È questo che sono venuto a dimostrarvi, che non sono né Hitler né Stalin, poi tu mi conosci da 20 anni. Anzi, quindi abbiamo tolto la violenza, perché il nazismo è nato in Ungheria, adesso in Ungheria al 20%, Alba Dorata al 18% in Grecia, Le Pen in Francia non è certo un moderato. Se qua non si è formato un partito violento, fascista, che l'abbiamo inventato noi, lo sai benissimo, l'abbiamo inventato tuo papà, quindi qui, no scherzo, ah, sì, invece, si dice la buon'anima, la buon'anima. Però Vespa non nega del tutto, cioè la buon'anima, no, dice. Non era un duello, però fosse stato un duello, Vespa proprio alla grandissima, Vespa alla grandissima. Anche perché era a suo agio, a un certo punto diceva: dai, ma che stai dicendo? Non ci credi nemmeno tu, non si può fare questa cosa. E Grillo non rispondeva, parlava d'altro. Non riesco a rilassarmi con te davanti, senti questo. Le informazioni devono girare, non le merci. Senti, è anni che dico queste cose. Tu vuoi far progredire, adesso rilassati. Non riesco a rilassarmi con te davanti così. Ti prego, ti devo fare un massaggino, non ho capito, che devo fare? Allora, rilassati. Perché eri a Dubai? E dice, a un certo punto Vespa dice: ma te che te frega, perché eri a Dubai? Io sono passato a Dubai pochi giorni fa. Perché eri a Dubai? Tu cosa facevi a Dubai? Perché lui va a Dubai e io no? Lo capite com'è il mondo? Cosa fa? Bruno Vespa arriva a Dubai e gli altri dicono: di passaggio a Dubai, venendo. Ma chi te ne frega? Io stavo a Dubai, va bene? E appena arrivi a Dubai c'è Expo 2020. Ti siede accanto donne insieme a te. Magari è il povertore che si inventerà un male. O il barista che aggiunge al Renzi. Renzi dà importanza, per quello che lo riguarda, a Borghezio. Senti, Renzi dice: via Borghezio dal Parlamento Europeo. Noi vogliamo cambiare verso nelle politiche di immigrazione. Non riguarda solo noi. Non è un nostro problema soltanto. È un problema degli esseri umani. E a quei grandi statisti in camicia verde diciamo da Napoli che noi cambieremo la politica dell'immigrazione, ma finché mandano Borghezio al Parlamento Europeo è normale che poi arrivino certe cose. L'assassino. Ma non mi togliete Borghezio dal Parlamento Europeo, ma che siete matti siete, oh? Benissimo. E lei come va? Siamo qui 800 24 00 24, grande ritorno Parenzo oggi, perché ci deve dire cose importantissime. Antonio Razzi, buonasera. Buonasera, caro Giuseppe. Come andiamo, senatore? Caro Davide. Tutto bene, sto rientrando adesso da Roma. Ma scusi, dove ma si trova? Ma non chiamarlo senatore. Adesso a Pescara. A Pescara. Allora, Parenzo, che vuoi? Perché non lo devo chiamare senatore? No, scusami. Dico non chiamarlo senatore, viene mal di pancia. Chiamalo Antonio Razzi. Che ma meglio, perché ti viene mal di pancia a chiamarlo senatore? Non ricordarmelo. Ma perché? Ricordarmelo. Io te lo ricordo, Antonio Razzi, senatore della Repubblica, no, per Forza Italia. Voglio veramente un bene dell'anima, ma non ricordarmi che è senatore, ecco. Ma perché non devo ricordarti? No, che male ti ha fatto? Questo. Perché? No, non mi ha fatto niente di male. Ma devi andare fino in fondo. secondo, allora devi dire che secondo te è indegno di essere senatore. No, dico semplicemente non ricordarmi che è senatore. Invece ecco, lo sai, è talmente, è diventato talmente famoso Razzi che a Napoli cosa hanno fatto, Antonio? Beh, mi hanno il maestro Ferrigno, Marco Ferrigno, mi ha fatto una statuetta per il prossimo Natale. Magari Davide mi deve vedere anche sul presepe. Cioè, hai capito Parenzo questa cosa incredibile, sì, o no? Che il grande maestro, ma certo, ma questo non ma è ma eccola qua, la faccio vedere a tutti, la faccio vedere a tutti quelli che sono collegati con la webcam, siamo alla radio ma è uguale, potete andarla, fra poco la metteremo come un tweet della Zanzara, la fotografia in cui Razzi viene viene praticamente no, scolpito dal presepe del maestro Ghi, come si chiama il maestro Razzi? Ferrigno, Marco Ferrigno. C'è Razzi nel presepe di Napoli, quello famosissimo, cioè pure con la carta grande maestro Marco Ferrigno. Ma con la carta di identità, che c'entra la carta di identità? Che sono italiano, italiano vero. Ma è proprio una bella statuetta questa qua, assomiglia proprio preciso al 100%. O no, forse è un po' più crozza che Razzi, però comunque vabbè. Ma è orgoglioso è vero, di questa cosa Razzi? Ma sicuramente, fatto da un grande maestro. Sicuramente, a pensare che 8 anni fa lavoravo in una ditta, una fabbrica di filatura e oggi mi trovo al Senato e che poi addirittura c'è la bella statuetta fatta dal maestro Ferrigno, dice della vita che vuoi più della vita. Che vuoi più, dopo questo che vuoi più? Oggi ho presentato anche sulla situazione carceraria pure, italiana che, interpellando no, per carità no dico, sta lavorando di continuo, sono andato a Roma vedi proprio per lavorare. Questa vabbè quello non abbiamo il Senato è chiuso ma io lavoro. Ma tu lo incontri ogni tanto il signor Piano al Senato, lo vedi? Mi sembra una volta. Ma guardate pure male perché forse ho detto che non lo vedo mai. T'ha guardato male così, t'ha guardato storto. Forse non mi conosci. Dici, senti, ma però, ma chi è questo Razzi? Chi è questo signore? Senti, ma ho saputo che Di Pietro. Beh, comunque, indipendentemente dalle cose, è un grande maestro. Dico, sì, maestro. Oh, solo che non viene al Senato, ma. Vabbè, pazienza. Maestro, ha fatto l'atelier lì, cioè, ha fatto un atelier lì al Senato, ha fatto una specie di studio. Beh, è un grande architetto, ecco. Adesso, per carità. Dopo, per dopo carità. Senatore, non lo posso dire perché non viene mai. Non scusa, Antonio, ma è vero che Di Pietro ti ha detto che tu hai tradito per 30 denari? Ho letto da qualche parte. Guarda, io non mi piace parlare, io nel mio DNA nel non tuo parlo DNA? Mai delle persone che non sono presenti. E vabbè, ho capito, però quello ti ha detto che tu hai tradito per 30 denari? Oh. Io sicuramente no, poi lo vediamo. Ma in che senso, lo denunci? Ma questo... C'è il mio avvocato che vedrà lui. È già attivo, tu lo vuoi denunciare, diciamola tutta. Siccome io non ci capisco niente di queste cose, io per quello molte volte non mi esprimo nel parlare perché magari mi scappa qualche parola, perché io vengo dalla campagna. Non vabbè, ma tu vieni dalla campagna e qualche parola... Non sono un laureato, come lo dico sempre. Cerco di fare il meglio di vabbè, ma del meglio lui ti ha detto che hai tradito per 30 denari, denunciala no sto Di Pietro o no? Io sicuramente non ho tradito per nessuno, io non, più che altro ho fatto del bene ai cittadini italiani, non ho tradito nessuno. Se devo dire qualche cosa sono stato io tradito, ma non io che ho tradito. Vabbè, arriverete in tribunale o no per questa frase che ha detto? Ma questo lo deciderà il mio avvocato, io non c'entro niente. Vabbè. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Noi sempre, per carità. Berlusconi a un certo punto, Berlusconi, stanno per arrivare i carabinieri, era da Del Debbio a Quinta Colonna, sentite. Perché a me piacerebbe continuare, ma lei a un certo punto deve rientrare. Sì, perché allora, i carabinieri arrivano alle 11:05 a verificare se io sono bravo e sto in casa. Esatto. Però scusi Razzi, noi stiamo aspettando il colpo di Berlusconi, il colpo finale della campagna elettorale. Ma lei quanti voti avrebbe portato a Berlusconi se fosse stato candidato? Diciamo la verità. Ma parecchie migliaia di, voti. 100.000, 100.000 li prendevamo, dai, su. Ma si poteva tranquillamente prendere. Ma insomma, un'opportunità. Perché, no, io ho visto che ci sono molti giovani che hanno visto... Sì. E vedono quello che fa Crozza o quello che fa Radio La Zanzara, sì, la discussione, e tutti per strada mi dicono: perché non ti sei candidato? Noi eravamo con te, sì, noi per strada, noi siamo di un altro partito, però volevamo a te perché sei simpatico. Per cui Berlusconi ha sbagliato. No, scusa, dove ha candidato? Dai, dove ha candidato? No, ma va bene così, guarda, così non devo. Adesso faccio campagna elettorale qui in Abruzzo, sì, ma aiuto gli amici. Ecco. Senti, ma com'è che la, ma non è che dobbiamo fare un circo, portare il circo in Europa, però scusami. Ma perché il circo? Scusa, che c'entra, no, il circo? No, voglio dire, dai, se io vado al circo, mamma mia, ancora. Ma facciamo fare il domatore a Parenzo. Ma questo si è fissato, mo, che mo adesso il Parlamento Europeo è una cosa seria, siccome si è fissato con questa roba qua. No, mica perché quello, ma anche il Parlamento Italiano lo sarebbe, ma noi dobbiamo per forza volere il circo. Quello è un circo che ci costa carissimo, no? Già. Senta, Razzi... Senta, e così potevamo parlare Deutsche Sprache. Ecco, appunto. Mit Davide Super Deutsche Rede, Parenzo. Che vuol dire? Hast du verstanden? No, ha già capito, potevo parlare in tedesco con Parenzo, così magari ci capivamo meglio. Intanto Razzi, sa il tedesco e tu non lo sai. Come si dice culona inchiavabile in tedesco? Perché oggi... È un po' schwierig, è un po' difficile. Grosse putz, un grande culo. Inchiavabile però, come si dice? Das ist un glaube che zum... No, diciamolo bene. Sì. No, ma diciamolo bene tutto intero. Culona inchiavabile in tedesco. Ho detto grosse Fuzze zu schwierig zum Vogel. Questo è culona inchiavabile. Fotterlo. Ecco. È difficile fotterlo. Certo che però è una cosa che si dice scherzosamente. Sì, ecco. Ma come, certo che sta Merkel c'è, cioè, Ma quelle si hanno fatto il sorrisino, lui e lei e la Sarkozy volevano e hanno eliminato, sì, il presidente Berlusconi. Ah, lì c'è stato il complotto. Amico mio. Lì te lo dico da amico, è proprio così è stato. È stato il complotto. Gatta Cicova lì, ma un grande cosa. Che prove adesso, hai tu? Che prove adesso, hai? Ma io sinceramente prove non ce n'ho, però ho visto l'entrata alla Camera dei Deputati del allora Presidente del Consiglio Berlusconi, che è arrivato molto molto distrutto in aula, e che tutti quanti noi l'abbiamo cercato e dicendogli: non ti devi dimettere. Vabbè, ho capito, andiamo, ma... avanti. Decidiamo, che prove hai di sto complotto? Che prove hai di questo? Ma si vede che io prove non ce n'ho, però dalle sorrisini che si hanno fatto la Merkel e Sarkozy, perché pensando magari dice: tanto l'abbiamo eliminato, parla quello che vuoi, perché c'è una gelosia purtroppo anche in Europa. Come mai sono così gelosi? Perché lui è più bravo di tutti quanti quelli messi insieme. Più bravo? Allora ecco perché ma pure più bravo della Merkel, ma sicuro. E quello che ci vuole essere più Berlusconi tranquillamente più bravo di, ma più bravo di tutti i 28. Tutti, 28, sì. Ma è così. Purtroppo. Ma sarebbe bravo geologia... anche a fare il Papa? Ma sicuramente. Ma come sicuramente? È uno, Antonio. È uno molto pacato, sicuramente potrebbe il Papa. Potrebbe tranquillizzare tutta la società. È un grande, quando uno è grande, gli puoi dare qualsiasi cosa in mano che riesce a farla. Ma sarebbe anche come Papa, sarebbe anche, come dire, uno che dà tranquillità a tutti, ma adesso non può fare il Papa, che perché ci sta Papa Francesco, ci pagherebbe. Vabbè, altro. Certo. Però se come ha studiato nelle Salesiani, sì, avrebbe ancora, sì, andato avanti a studiare sulla cosa, perché no? Poteva fare pure quello tranquillamente pure il Papa. Però ha fatto alla grande il Presidente del Consiglio, sì, e se studiava, andava avanti ancora come ha detto lui, che ha, sì, studiato nei Salesiani, sicuramente poteva arrivare anche a fare il Papa, capito Parenzo? No? Ma questo è chiaro, sicuramente c'è anche il profilo, proprio se studiava poteva arrivare a fare il Papa, ma che Parenzo? Sì, Parenzo, adesso non esageriamo. Senti, ma pure a te Grillo fa paura come fa paura Berlusconi? Ma guardamente ieri sera l'ho visto, quel poco che ho visto da Bruno Vespa. Io devo dire, Bruno, sì, Vespa l'ha stecchito. L'ha ammazzato. L'ha ammazzato perché io penso che lì gli ha fatto perdere 5 punti, perché non sapeva più cosa doveva dire. E poi come dico sempre, quando uno non guarda ed è agitato perché vuole vedere gli spettatori, è agitato, io non lo so che è agitato. Non era più lui, ecco. Vabbè. Antonio, comunque l'ha messa in difficoltà. Comunque la statuetta, ragazzi, Antonio Razzi è finito nel presepe di Napoli. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Benvenuta nel mio spazio sotto salice, salice, non stare lì così, mettiti comodo. Ho detto, grossi tutti i sussurri che sul fondo, è difficile posterlo. È la traduzione in tedesco di Culone Inchiavabile, ce l'ha regalata Antonio Razzi. Intanto, ma che è sto rumore? Che c'è? Cos'è sto rumore? Cos'è il cesso? Cos'è il cesso? Parenzo? Stavo pensando, la cosa che mi piace di più del rumore del gabinetto, sì, non è solo quando tiri l'acqua, è il gorgo che si porta via lo schifo, che è la metafora di quello che facciamo noi praticamente, cioè... Quando alle 20:50 si chiude la trasmissione, sì. È quel gorgo, è quel rumore finale che rende l'idea che basta, è spazzato via tutto. Io non ho capito, che cosa hai fatto, la cacca o la pipì? No, ho fatto sostanze liquide, ma non è importante cosa fai. Ma dimmi la verità, che cosa hai fatto? No, ma diciamo, no? Diciamolo chiaramente, trasparenza. E ci hai fatto sentire la catenella del cesso con l'acqua, col tuo schifo? No, non è che ho detto, devo andare in bagno un attimo. Mi chiama Riccardo Poli come sempre, mi dice veloce che sì, siamo ma in qui diretta. Non è la trasmissione à la carte, cioè è una trasmissione in cui tu già sei a casa a rompere i coglioni e ti si sente male. In più ci tiri, ma me ne fotto Europa. Tutti abbiamo una cena qui, ce ne fottiamo, chiunque sta qui ha una cena. Primo, secondo, se la vuoi mettere su questo punto. Secondo, cioè, tiri la catena del cesso, almeno dici cosa hai fatto, la cacà. Ho fatto la pipì. La cacà, ma... come cacà, la cacà, la cacchetta. No, ho fatto la pipì. Papà, gente che chiama, papà, ma dai, su, ma di che stiamo parlando, dai? Ho fatto la pipì. Ma non è una roba seria. Qui ti permettiamo tutto, ti permettiamo qualsiasi cosa, anche Berlusconi che fa l'indagine sui denti degli anziani. A un certo momento mi sono messo in testa di fare un'indagine e vedere su 10 persone quante persone mancavano di denti. E su 10 persone, una media, 6 mancavano di denti e 1 su 10 di queste persone anziane mancava di tutti i denti. Io ne ho mandati diversi già per conto mio dal mio dentista. L'indagine sui denti degli anziani. Ma dai, su ragazzi, ma come si fa? Su. Poi vuole togliere l'IVA per i cibi degli animali, per chi compra. No, questo no! Ma perché bisogna togliere l'IVA a chi compra il cibo per gli animali? Parenzo, reagisci di fronte a questa cosa! No, ma questo del cibo per gli animali può avere anche un senso. Ma vaffanculo, dai, su, no, l'IVA si toglie questo... ai poveracci per acquisti di cose importanti, ma no, il cibo degli animali. Io sai che ti merito. Dico, io non sopporto quelli che hanno gli animali e ne fanno un feticcio. Non sopporto quelli che hanno gli animali e sono più importanti degli uomini, non li sopporto, sono dei poveri frustrati pazzi. Ma vaffanculo, te, Dudu! No, Dudu no, Dudu vaffanculo no, dai. L'IVA e gli animali. Oggi ho... potuto constatare direttamente, ci sono dei pensionati che hanno appunto un cane costa 100 euro al mese, quindi credo che abbiano molte difficoltà a trovarli. Sì. Allora abbiamo inserito una serie di cose, per esempio togliere l'IVA sui cibi per gli animali quando vengano acquistati da persone che sono in pensione e tante altre cose. Saremo tutti nudi, tutti rosa, tua rossi. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi non si vota per il governo, nuovo scontro con il leader 5 Stelle, domenica derby tra chi evoca terrore e chi prova a cambiare le cose. Grillo vinciamo, poi subito al voto con la legge che c'è, a fondo contro il premier, per lui ultimi giorni di Pompei contro Berlusconi, un povero uomo. Il leader di Forza Italia replica: Grillo è un assassino pluripregiudicato, per gli spettacoli incassava soldi in nero, adesso fa il moralista. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble al TG3: le regole comuni vanno rispettate, in economia le ricette facili non funzionano, fiducia nell'Italia. Il decreto casa diventa legge, novità per gli affitti, sgravi fiscali su ristrutturazioni, ma niente gas e luce a chi occupa, protestano i movimenti. Estradata l'Italia dalla Francia, che era Rizzo, la moglie di Amadeo Matacena, accusata dall'ex ministro Scajola di aver favorito la latitanza del marito. Arrivano le prime parziali ammissioni del killer della Gallura: ho partecipato al delitto, avrebbe detto agli inquirenti, non era da solo. Well now, little mosquito, there must be, well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So pronto? I'm nature's. Sì? E il conduttore? Sì, ma certo che è il conduttore. Quando uno chiama in una trasmissione e poi parla col conduttore, è il conduttore? E il conduttore? Ma sì! Il conduttore di cosa? Ah, vogliono il sangue come Hitler, ancora Berlusconi. Questi vogliono la vendetta, cercano il sangue. E purtroppo Grillo, con il suo comportamento, con la campagna elettorale, con lui che è addirittura oltre Hitler, con il fatto che dice voglio distruggere il Parlamento, la Camera, il Senato, i partiti, sottoporremo a processi sommari pubblici di massa politici, imprenditori, giornalisti. Queste cose sa chi le diceva? Le diceva un certo signore che si chiama Adolfo Hitler. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guarda avanti, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, immigrati, Padania, soltanto Matteo Salvini, guarda avanti, in Europa. Guarda oltre i monti, guarda sempre il portafoglio, quando scendi nella metro di Milano, vai vedere qualche negro potrebbe rubartelo. Sali Padania, fai vedere quanto. Renzi ha cantato l'inno d'Italia in un comizio a Napoli. Senti il nostro amico Sammy Varin di Radio Padania. Ma no, ascoltatemi una curiosità, si chiama di nome Sammy? Ma non lo so come minchia si chiama, è uguale, dai, su, si presenta come Sammy Varin, non so se sia il nome vero o finto, dai. Nome di battaglia, ma Sammy. Sì. No, perché non ho mai sentito un nome di... No, adesso non voglio fare nessuna ironia, ma Sammy non è un nome padano. Ma no, sarà Samuele, che ne so, dai. Siamo tornati a cantare l'inno italiano a Napoli. Oh, e qui chiaramente abbiamo sfiorato dei momenti davvero, davvero stupendi, mai accaduti, a Napoli che si canta l'inno italiano. Ma certo, cantatevelo l'inno italiano. Che schifo. Fai sentire quanto. Poi interviene un ascoltatore che dice: Garibaldi è un merdoso. Senti, Garibaldi. Siamo al top. Una madre e un figlio. E sento già gli stronzi che parlano, insultano e tutto. Ma la colpa, sai di chi è, Sammy? Di quel merdoso di Garibaldi. Se si faceva i cappi suoi, l'Italia veniva divisa regione per regione. E chi te la fa, va avanti? Troppo comodo mettere un pozzo unico e Roma fa i debiti, Napoli fa i debiti, in meridione si grattano i coglioni quando c'è il terremoto, tutti lì che piangono, Friuli si tirano sulle maniche, due anni hanno tirato sul paese. Chi non ce la fa, che ruba, va a prenderselo nel culo, perché sono stufo di pagare le tasse per quegli stronzi lì, perché è troppo comodo fare finocchi con il culo degli altri. Pensamenti. Ascoltatore Radio Padania. No, ma scusami, questa dissertazione storica, perché non mi sembrava una discussione dalla, allora? Dalla grande storia di questo signore. Allora? Che se la prende con il signor Garibaldi addirittura. Sì, Garibaldi, no? Garibaldi. Per colpa di Garibaldi. E Mazzini? E Mazzino, giovani, Italia? Ma questa gente qui, ma vedi cosa succede quando lasci a chiunque il diritto di parola. Gianni ad Ancona, tu stai dicendo che non bisogna dare il diritto di parola. Beh, a quelli che chiamano. Gianni d'Ancona, Gianni d'Ancona. Buonasera Cruciani. Dica. Buonasera, senta, io vorrei accomunare lei e Riccardo da Roma in un unico grande vaffanculo. Bene. Cioè, hai veramente triturato le palle con sto Riccardo da Roma. Perché? Perché è intervenuto parecchie volte da voi alla Zanzara. Sì, no, parecchie volte no, qualche volta. No, no, parecchie volte. Il professor Riccardo, lo chiami professor Riccardo da Roma? Professore, sì, sì, a cui gli do un consiglio, telefoni meno alla Zanzara e scopi un po' di più. Perché, sì, non ho capito, scusi, non ho capito bene, stavo leggendo una cosa. Cosa ha detto? Telefonare meno la Zanzara e farsi qualche scopata in più, perché... Ma non è un'alternativa, cioè non è che uno può fare tutte e due, telefonare la Zanzara e farsi qualche scopata in più, Gianni. No, perché dal livore che emerge, secondo me c'è un'attività un po', come dire, un po' scarsa, ecco. Ma chi ha detto a lei? Livoroso, lei sta insultando. Ma chi? Riccardo, dice lei? Certo, è troppo livoroso. Esercito di Riccardo, fan di Riccardo da Roma, sì, c'è questo tizio, Gianni d'Ancona, che dice che il vostro idolo, Riccardo da Roma, in realtà tromba poco, capito? È sicuro, col livore che dimostra. E poi lei comunque ha un merito, guardi. Qual è il merito? Ha creato un luogo, anche se virtuale, dove tutti i pirla d'Italia si possono ritrovare. Compreso lei. Esatto. No, io non ho sicuro. No, lei no, perché lei si autoproclama non pirla. Si autoproclama intelligentone, si autoproclama professore. Intelligente no, ma non pirla. Non pirla, ecco. Sì, si è autoproclamato non pirla lui. Ma scusami un attimo, questo qui, nei suoi interventi che ha fatto alla Zanzara, con i suoi 7-8 neuroni che c'ha, ha espresso questi concetti, Massimo. La sinistra ha rovinato l'Italia, Parenzo è un leccaculo, il suo ducetto è perseguitato dalla giustizia. E poi, qui in sintonia perfetta con lei, sì, chi scende in piazza, disoccupati, ultimi, sì, quelli che non ce la però fanno, io la lascio in questo modo. Farebbero bene a stare a la casa. La lascio così, Gianni. Per i coglioni. La lascio così. Avete distrutto questo paese. Mamma mia, secchie di merda. Ma vaffanculo, vaffanculo. Avete distrutto questo paese. Mamma mia, secchie di merda. Cioè i comunisti prima hanno sfondato un paese per 40 anni, l'hanno ridotto un cesso, e adesso parlano di meritocrazia. Loro poi parlano di meritocrazia, capito? No? Avete distrutto questo paese. Poi parlano di meritocrazia, capito? No? Avete distrutto questo paese. Loro che hanno diviso l'Italia in due. Ci sono gli statali che non li puoi fare un cazzo, non li puoi licenziare, non li puoi mandare via, gli devi dare lo stipendio pure se rubano. Ma vaffanculo. Spettacolare. Spettacolare. Io amo l'Italia, come noi, dove c'è la storia, non dimenticarlo mai, perché in fondo è dentro te. Caro Parenzo, c'è un parlamentare europeo uscente che si chiama Magdi Cristiano Allam, sì, il quale ha presentato in procura, non so quale procura, un esposto, ha denunciato Napolitano per tradimento. Alto per tradimento? Alto tradimento, sì. Capito? Beh, e quale sarebbe il tradimento? Alto tradimento. Un esposto in procura per un'associazione che si chiama Salviamo gli Italiani. Salviamo gli Italiani. Salviamo gli Italiani. Capisco. Ha presentato un esposto in poi procura. Poi tu ti arrabbi quando tiro l'acqua. No, mi dispiace che gli amici di Fratelli d'Italia, come dire, no? Immagino per così, per raggranellare non so quanti voti abbiano ospitato. Vabbè, lasciamo perdere. Ha presentato un esposto in procura per il silenzio del Colle sul golpe finanziario che fece fuori Berlusconi. Il personaggio Magdi Cristiano Allam, che una volta era un bravissimo giornalista e poi, vabbè, è successo quello che è successo, ma d'altra parte ognuno fa quello che vuole nella vita, no? Che si è rovinato sugli omosessuali, cose recenti. Se noi dobbiamo recuperare questo grave deficit demografico, dobbiamo sostenere la famiglia naturale, perché piaccia o meno, ed è biologia e non ideologia, solo il sodalizio tra un uomo e una donna può rigenerare la vita. Se vogliamo incentivare la natalità, dobbiamo sostenere la famiglia naturale. Beh, diciamo, ci ha comunicato una cosa che non sapevamo, cioè che un bambino viene fatto tra un uomo e una donna. Bah, che cosa bizzarra, no? Dai, su. Oh, c'è qualcosa che arriva adesso dalla presenza di Renzi da Barbara D'Urso, eh? Renzi, tra l'altro, ha detto una cosa assurda questa sera da Mentana. Ha detto, ieri nel suo show con Vespa c'erano due consumati professionisti del mondo televisivo, cioè Vespa e Grillo. Hanno fatto uno show straordinario che, se non fosse che dobbiamo occuparci della Libia e dell'Ucraina o del lavoro, ci sarebbe da vederlo in loop. Cioè, ieri show Vespa Grillo invece di pensare a lavorare, questo ha detto. Cioè, lo dice Renzi! Lo dice Renzi che va dappertutto, pure dalla D'Urso! Cioè, ma ti rendi conto o no? Era uno show, solo che poi c'erano cose più importanti, la Libia, l'Ucraina. Ma guarda, quello che viene detto. Ti rendi conto o no? Ma è ovvio, hai ragione. Tutto quello che viene detto in queste settimane non ha nessun valore, è solo roba da campagna elettorale. Su questo hai ragione. Comunque, vabbè, Renzi, sentiamo che imita Berlusconi. Quindi ci sta anche quello, però. Ma dai, su, ma lo dice Renzi che vanno in televisione, invece bisogna occuparsi di cose più importanti. Rinunciasse agli ultimi 5 giorni di campagna elettorale, allora. Rinunciasse. Quanto ci hai messo tu per imparare a fare l'imitazione di Berlusconi? Mi consente? No. No, un po' ma di facevi tempo. Bene. Sì, ma non tornare a quella del 97, ho già capito dove vuoi arrivare. Sì. Ma più che un'intervista, questo diventa uno spezzone di film dell'orrore. Era troppo divertente. Allora fammela al volo qua. Ah, vabbè. E adesso passiamo al nuovo contributo filmato di un giovane della provincia di Firenze. Mi consenta, vai. Vado in bicicletta per far calare la pancetta. Però insomma, quando un po' mi manca la bici. Dopodiché ho voluto un'altra bicicletta, sicché ora pedalo. Pedali che la pancetta non c'è. La pancetta no, non. Sono un po' ingrassato, però dimagrisco. Bene, a Gennaro da Caserta. Buonasera, Gennaro. Buonasera, Giuseppe. Dimmi. Giuseppe, ti posso dire una cosa? Lo sai da noi i tipi come te, come si chiamano in gergo tecnico dialettale? Oh. I picciavagliari. Che vuol dire? Perché tu sei bravo. Uno che brucia, diciamo, le capanne, no? Detto così, italianizzato. Brucia le capanne? Io non ho mai bruciato una capanna in vita mia, comunque. No, no. Qual è la metafora? Qual è la metafora? Lo dico che ha un doppio senso. Uno che anziché di buttare acqua sul fuoco per spegnere, butta benzina. Cioè, il popolo di Riccardo, le Renzi che parla e insulta, tutte queste cose così. Cioè, l'informazione dovrebbe essere fatta in un modo diverso. Ah, ce lo vuoi dire tu, allora? Ce lo vuoi dire tu come deve essere fatta l'informazione? Ma Giuseppe, ma tu lavori in un network, tu è chi ce lo vuoi dire tu? Il professor Gennaro da Caserta ci vuole dire come dobbiamo fare la trasmissione. Sono un semplice. Posso dire una cosa? Scusa, una cosa che mi è capitato stamattina. Ho dato la mano al ministro Cecil Sieng, no? In un autogrill del Modenese. Io sono un autotrasportatore, non ti puoi immaginare quando sono stato orgoglioso di dare una personcina semplice che viveva al suo tempo. Non ho capito, scusa. La ministra dell'integrazione, Cecil Kieng. Sì, ma non è Kieng. Più ministro dell'integrazione da un po' di tempo, eh? Non so se ti è nuova. Lo so, dico, beh, è stata l'ex ministra. Io non vabbè, è che sei emozionato per non la Kieng. Non sono vabbè. Emozionato perché ho visto una politica fatta così, tra il sociale, una persona semplice. A te basta una persona che sta facendo campagna elettorale, dunque in mezzo alla gente. Aspetta, per. Dai, Giuseppe, su. Giuseppe, aspetta un non attimo, ti fare fottere, ti non ti fare fottere. No, non voglio far fottere. Aspetta, una sera in un ristorante del Frosinone. Ho incontrato un deputato, ma io lo dico pure perché non ho problemi, Rotondi, che hanno fatto una tavolata, sembravano dei mafiosi, se li guardavi dall'esterno, dei mafiosi, che loro godevano di privilegi che magari... Ma scusa, ma tu per definire mafiosi, scusa un attimo, tu per definire mafiosi, quelli che erano al tavolo con Rotondi, fanno? Così ti è bastato vederli ma in faccia? Ma c'era lui con un sacco, uno se lo carezzava, un altro la sala tutta bella riservata per loro, ridevano, scherzavano senza preoccuparsi di tutti i problemi che ci stanno nel basso rango sociale. Invece stamattina ho visto una politica diversa, un, una persona che fa politica, che è stato un ex ministro, spesso stava lì bere il suo tè in mezzo. Quella è la vera politica, fatto dal lato basso, non quella dai privilegi. E questo è un po', siete anche voi che incentivate questa cosa, che date spazio a un Borghezio, a un Razzi, che comunque si è, ha detto, come ha detto, così, che faceva 8 anni e ha lavorato nelle trafilerie, ed era meglio che ci rimaneva, perché adesso sta a fare il Michelasso a Montecitorio, a mangiare e a bere. Gennaro, dove stai andando col camion? Dove stai andando col tuo camion? Adesso mi sto recando in sud, sto in sud, verso Orvieto. Sud. Orvieto. Ciao caro, ciao. Avviso tutti i tassisti d'Italia che tra una mezz'oretta circa, grande avviso, tra una mezz'oretta circa, per chi vuole dopo, non durante, dopo ci vuole chiamare, che avremo il grande capo di Uber, il grande capo di Uber collegato con noi, il bersaglio di tutti i tassisti d'Italia. Però non chiamateci mentre ci sta lei, è dopo. Pronto? Vai. Ciao, buonasera, mi chiamo Enzo. Senti, volevo solo fare una considerazione. Ma questo vecchio coglione pregiudicato, perché non fa un favore all'umanità? Sì, quale sarebbe? Intanto spegni la radio un attimo. Si suicida, si toglie dalle palle. Si suicida e si toglie dalle palle. Chi è che dovrebbe suicidarsi, scusa? Perché Berlusconi ha rotto i coglioni. In tutti i sensi, in tutte le maniere. Sì. Ma il solo fatto che parla. Perché non si fa una bella operazione alle corde vocali? Se le taglia? Sì. E almeno la finisce di dire puttanate quando parla. Perché basta che apre la bocca e dice puttanate. Vabbè, insomma. Poi? Poi? Niente, volevo semplicemente sfogarmi in questo senso, che mi ha rotto i coglioni questo. Ma perché? Un rimbambito è pregiudicato. Non poteva essere in classe, buttassero le chiavi. Ma perché ti ha rotto i coglioni? Spiegami adesso. Ma non si può più sentire qua. Io sto oggiando pure il cane, perché ogni volta che accende la rasa, finisce, o si parla di suo coglione o si parla del cane. Io sono un cioffolo, io amo il cane, ma me lo sto facendo odiare sto cazzo di Dudu. Ma ho capito, ma che c'hai contro Dudu, poveraccio? No, me lo sta facendo, ma ogni minuto ha fatto la cacca, ha fatto la pipì, ha fatto, ma che cazzo se ne frega di Dudu? Senti, io sono disoccupato da un anno, ho preso per un anno la disoccupazione. Sì. Da un mese, da marzo non la prendo più. E questo è dove sei visto? Il coglione che parla del cane, che non ma non parla solo del cane, su. Ma che significa che la casa da adesso ultimamente? Non si paga l'IVA per chi compra il cibo per cane. Ma comprarsi il cibo per la povera gente che sta per vivere dalla strada. Sì, questo, sull'IVA. Io sull'IVA. La Caritas. Sull'IVA, dove vai a mangiare tu? Alla Caritas, perché non posso più mangiare, no? Cioè, scusa un attimo, tu ci chiami col telefonino e poi dici che vai a mangiare alla Caritas. Vabbè, ma sono telefoni che costa 11 euro. Ho capito, e poi vai a mangiare alla Caritas, amico mio, rinuncia al telefonino. Chi va a mangiare alla Caritas non è che c'ha il telefonino di solito, dai. Mi vendo un telefonino di 11 euro e posso... Sì, un telefonino di 11 euro, dai, poi ci sono le telefonate da fare. Con i coglioni Berlusconi, ma fanculo, va. No, Enzo, scusami, ma abbi pazienza. Cioè, mi dice che va a mangiare la carità se poi c'ha il telefonino. Dai, su, ma non diciamo puttanate, dai. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh! Oh, Grillo Vespa, il tempo è scaduto, lo dico io. Bene, il tempo è scaduto. Lo dico io questo. Dillo tu. Il tempo è scaduto. È scaduto. Bene. Io vi abbraccio e scusate, questa è veemenza. È la passione. E vi do appuntamento il 23 in piazza San Giovanni. In piazza San Giovanni vedremo se avremo perso le elezioni. Vieni, fatti un bagno di verità. Vieni tu alla diretta di domenica. No, fatti un bagno di verità in una piazza. Vediamo come ti accolgo. Va bene, grazie a Beppe Grillo. Ricomincia quel rumore. Io sono stato uno dei primi ad avere un impianto che generava elettricità privato in casa, ero un curioso, facevo l'idrogeno. L'ho fatto anch'io. Ma la pensiamo diversamente su queste cose? Ma io, tu stai col fossile, tu sei fossile un pochino. No, io non sono nel senso, guarda, no, nel senso. Guarda che tu mi baffa, siamo là, eh. Nel senso. Lascia perdere, allora, discorso pericoloso. Allora. Beh, la vittoria di Vespa è chiara, dai, quando a un certo punto si entrava nel merito di alcune cose, Vespa gli piazzava lì la bordata, dai, ridendo, scherzando. Era una supercazzola continua quella di Grillo, cioè lui funziona nello spettacolo, nella piazza, lì perdeva qualunque tipo di credibilità. Ma adesso credibilità, numeri... ma che ne sai, magari ha guadagnato centinaia di migliaia di voti, questo non, si... Il mio, questo non si può sapere, dai, su, è un'altra roba. Mi faceva anche le sue analisi economiche, dette nella piazza. Ma che analisi economiche, dai, su, analisi economiche. La sua teoria sulla decrescita, dico, la teoria sua sulla decrescita. Ma sì, poi bastava un sorriso di Vespa, una battutina di Vespa e tutto finiva, dai. Allora, abbiamo con noi Michela Biancofiore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come andiamo? Come sta, cara? Bene, bene, grazie, tutto bene. Voi come state, ragazzi? No, bene, la cosa che voglio sapere è, ha messo a riparo la sua cagnetta dall'assalto dei grillini, dall'assalto di Grillo, cioè è ben protetta, non vorrei che succedesse. La mia cagnetta si difende bene da sola, è come la padrona, e quando è attaccata è buonissima come me, quando è attaccata morde, per cui se Grillo si avventa e si difende, per cui se quindi Grillo non ho parole. Se Grillo osa mettere le mani sopra un qualsiasi cane, magari la sua cagnetta, deve le prende dalla cagnetta e anche da me. E anche da lei, però perché poi ha trovato veramente disgustoso quella. Però poi ha rettificato, ha detto che lui è contro la vivisezione. E dopo ha rettificato perché si è reso conto che ha perso una valanga di consensi in quel momento, perché oggettivamente prendersela con un animaletto, sì, il livello al quale siamo arrivati in questa campagna elettorale è veramente penso. Vabbè, pure Berlusconi ha detto oggi che quello è un assassino, cioè Biancofiore. Insomma, tecnicamente ha detto una verità tecnicamente, poi che magari sia stato eccessivo anche lui può essere, però ha detto tecnicamente la verità, è uno che è stato condannato per un omicidio colposo, è uno che non si fa scrupolo a parlare di morte anche quando riguarda un cagnolino, questa è la triste verità. Però non c'è scusi, dubbio che Grillo, che a me stava pure molto simpatico, pure in passato, abbia in testa questa campagna elettorale una violenza inaudita, io ho fatto 20 anni di campagne elettorali, È una bestia. Non ho mai visto una violenza nelle parole di un politico come in lui, francamente anche molti di sinistra nell'esercizio dell'attacco a Berlusconi hanno detto di tutto, però la violenza costante, continua, centellinata, come una goccia che scava la roccia di Grillo, non si è mai vista. Però tutti erga omnes, il primo a introdurre la questione di Hitler è stato Berlusconi, perché Berlusconi per primo ha detto io ho riletto i discorsi di Hitler, sono uguali a quelli di Grillo, pure lui effettivamente noi li abbiamo letti anche insieme, pure, io l'ho visto, lei ha letto i discorsi insieme, purtroppo combaciano, lì ce l'ha fatta notare Berlusconi questa cosa, purtroppo ha detto una sacrosanta verità. Ma quali discorsi avete letto? Anche Hitler diceva che bisognava aprire il Parlamento, che bisognava soppiantare, che tutti i politici erano ladri, che di quelli sempre le stesse cose, insomma, francamente. Ma scusi, ma che discorsi avete letto da Grillo quando non ho mai rubato manco una caramella in vita mia, insomma, mi dà un po' fastidio. Ma che discorsi avete letto? I discorsi di Hitler. È questo che non capisco. Dei discorsi del 1932, figuriamoci, insomma, le cose, ma girano anche su internet. Ma dove l'avete tirati fuori questi discorsi di Hitler del 32? È una cosa pazzesca. Ma ci sta Mein Kampf, che basta leggerselo, Mein Kampf, le mie battaglie, sì, tradotto, sì, la mia battaglia, magari sì. Non tutti lo sanno che cos'è Mein Kampf. Che trovi molti discorsi simili. E l'avete letto insieme a Berlusconi? Tutti i dittatori, ma varie volte si è parlato, si è discusso, ma ci sono in internet, girano tranquillamente. Sì, lo so, internet, certo. Quindi non è un'invenzione di Berlusconi questa. No, vabbè, l'hanno fatta girare altre persone che si sono preoccupate molto prima di Berlusconi. Però la domanda comunque è questa: la violenza di Grillo Berlusconi non l'ha mai raggiunta. Dire che uno fa discorsi come Hitler è un conto, dire di voler vivisezionare un animaletto, aprire il Parlamento come una scatola di sardine, mettere tutti al rogo e via discorrendo. Ma oggi ha detto pure che prendi i soldi in nero, adesso detto da Berlusconi che è una condanna per frode fiscale. Non è proprio il massimo, dice una condanna per frode fiscale per Berlusconi, lo ripeterò per la centesima volta, voi si dimostrerà che è una condanna assolutamente giudiziaria, però c'è. Si è dimostrato anche, tutti i nodi vengono al pettine. No, d'accordo, però quello gli ha dato dell'evasore. È emerso, ma c'è una condanna che si sa, che è una condanna no, politica. Ma quello non che c'è gli un ha detto... italiano che non lo sappia, ma Berlusconi quel... non ha rubato manco una caramella in vita sua, anzi, ricordiamo a chi ci sta ascoltando che Berlusconi fatto? È paradossalmente il primo contribuente italiano, lo sappiamo. Ha pensato 9 miliardi questo di non euro. Esclude che uno, non esclude che uno possa evadere il fisco anche se è un grande ma contribuente. Guardate, ancora una volta, quel reato si chiama reato proprio giuridicamente parlando. Però non entriamo nel dettaglio. sbaglio. Lo compiere soltanto qualcuno che lo commetteva. Però, scusi, direttamente. Lui scusi, ma oggi ha detto che Grillo è un evasore praticamente, perché è stato... Evidentemente se l'ha detto ha le carte in mano, perché altrimenti... questo bisogna vedere. Io non lo potrei dire. Evidentemente se Berlusconi si è esposto in questa maniera e parla di testimoni, evidentemente questi testimoni ci sono. D'altronde... Ma insomma, immagini Grillo che vince le elezioni. Grillo non lei è altro che un imprenditore di se stesso. Quindi se dicono che un imprenditore, se voi dite, se il mondo mediatico, tutti dicono che un imprenditore deve evadere per forza, evidente che Grillo è evaso. Ah, tu, lei dice, siccome, siccome però, tutti dicono che gli imprenditori devono evadere per forza, anche Grillo deve avere evaso per forza. Ma ci sono i testimoni, ribadisco. Ma i testimoni, io uno lo dice, è uno che lo dice. Un eroe in questo paese. Io, perché ho la cultura democratica e liberale e di destra, sono convinta che ogni imprenditore sia un eroe in questo paese. E fa bene a evadere il fisco ogni tanto. Purtroppo la filosofia determinante in questo paese, che è quella di sinistra, no, non rubano, in genere non rubano, tutt'altro. No. La filosofia determinante fa credere che l'imprenditore di sinistra in questo paese fa credere che l'imprenditore evade sempre. Questo è disgustoso, ma comunque finché non cambieremo questa mentalità in questo paese, purtroppo, Parenzo, assisteremo sempre a volevo dire cose varie, perché la corruzione non è insita nel privato. Signora Biancafiore, no, White Flower, la saluto. Cioè sono più corrotti i dipendenti pubblici dagli imprenditori, dice lei? No, i dipendenti pubblici, assolutamente. Il la pubblico? Il pubblico laddove ci sono gli appalti pubblici. Come ho capito. Sì, sì. Parenzo, che vuoi dire? È una questione di filosofia politica, mentale, umana. Sì. C'è chi si innamora della pubblica amministrazione e c'è chi si innamora del lavoro, della produzione del privato. Io preferisco la seconda. Parenzo, che dici? No, non voglio tornare sulla scena della Biancafiore. Fiore, Dudu e Berlusconi ancora, che leggono il Mein Kampf. C'è un capitolo nel mio libro, ve lo leggerete così capirete. Sì, non sì. Torno in quella scena lì, cioè di loro che leggono insieme il Mein Kampf e poi fanno... Non no, mi interessa. Non è passiamo un pezzo di Mein Kampf, non è il vabbè, ma non c'è niente. Ce ne guardiamo vabbè bene da leggerlo, anche se è istruttivo sicuramente. Ma lei mi ha detto che l'avete letto tutto insieme. Quello che l'avete è tutto quello che non si deve fare assolutamente. Le voglio chiedere un'altra cosa invece, cara, le voglio chiedere un'altra cosa, sentendo la bella pimpante, ha visto quelle foto sul settimanale Chi dell'ex moglie di Berlusconi, sì, la signora Lario? No, più che altro me ne hanno parlato, non le ho viste, le ho intraviste in vari giornali. Vabbè, ma lì che non c'è niente di male averle pubblicate, donna, su. Ma non c'è niente di male averle pubblicate. È una donna. Parlare con la Biancofiore. È un personaggio pubblico. È un personaggio pubblico. No, fammi parlare con la Biancofiore. Non trovo che ci sia nulla di scandaloso, soprattutto a vedere una signora che è un po' cresciuta e che ovviamente può non può tenere alla sua linea, può non può tenere al suo aspetto. Sono cose assolutamente private nelle quali, peraltro, non vedo perché ingigantire il problema. Ecco. No, ingigantire. Hanno pubblicato privata delle foto. L'ha ingigantita la signora Lario. Nessuno se l'era filata quelle foto. La signora Lario ha fatto un'intervista dicendo evidentemente che lei si è sentita colpita, bisogna ovviamente lasciarla stare nella sua volontà di rappresentarsi in un'altra maniera, e quindi voglio dire vabbè lei con chi sta, con chi o con la Lario? Con chi sta lei, con chi o con la Lario? Io credo che una persona possa voler, che io rispetto chi vuole invecchiare come vuole invecchiare, nel senso rispetto chi vuole essere e come appare, non vedo quale sia la ma cosa. Ma nessuno poi ha detto che è un personaggio pubblico. Ah, ecco. Come un personaggio pubblico si possono fare delle foto. Un attimo solo che c'è la pubblicità. Ma gliel'hanno fatte, ma non capisco perché in questo particolare momento, perché gliene hanno fatte altrettante. Ma è lei che ha protestato, nessuno ha protestato, solo lei, un attimo solo. Buonasera, senta, io vorrei accomunare lei e Riccardo da Roma in un unico grande vaffanculo. Gli do un consiglio, telefoni meno a zanzare, scopi un po' di più. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada, dove passano quei passi amari. Allora Grillo però ieri sera, Parenzo, da Vespa ha detto una grande verità, cioè che queste elezioni in realtà valgono come elezioni politiche, altro che elezioni europee, sono un test politico. Dunque ha detto, ma è una realtà, anche Cacciari ieri sera ce l'ha detto, se sarà maggioranza alle europee ci saranno elezioni anticipate, ma questa qua è una realtà assoluta, è inutile negarlo, è inutile dire come fa Renzi, no, queste elezioni non c'entrano niente col governo. È come se c'entrano col governo, amico mio, siccome si è arrivato al potere senza passare dall'elezione, questo è il primo test elettorale. Dunque valgono come test italiano, ce ne fottiamo del Parlamento europeo, non è quello il punto, è un test elettorale italiano. Siccome Renzi è arrivato a Palazzo Chigi, non bisogna mai dimenticarselo, senza passare dalle urne, come aveva detto in precedenza, adesso si becca le elezioni europee come test nazionale. non eludo niente. Ma non riuscirai mai ad avere il 51%. Ma da chi solo se ne frega del 51%? Ma come governo, scusa. Ma noi andremo alle elezioni? Andremo alle elezioni. Noi vogliamo andare alle elezioni anticipate. C'è già una legge elettorale. La Corte Costituzionale ha detto che va bene il porcello con le modifiche che ha fatto la legge. La c'è bisogno di un Presidente del Consiglio che si dimetta e di un Presidente della Repubblica che sciolga le Camere. Allora, vediamo. Noi cercheremo di far dimettere questo Presidente che non rappresenta più la maggioranza degli italiani. Non c'è più la maggioranza politica di niente. Se noi prendiamo la maggioranza delle europee, questo governo deve andare a casa in tutti i modi. Ora, non le viene un po' di tristezza, Michela Biancofiore, deputato di Forza Italia? È la prima volta che in realtà Berlusconi è in retrovia. Qui c'è un derby, un duello ormai chiaro tra Renzi e Grillo. Il vostro... Ma è un'esposizione tutta mediatica, è una volontà mediatica di farlo passare un po' in Ma che volontà mediatica? Certo, è chiaro, purtroppo Berlusconi non è candidato, se fosse candidato gli sarebbe tutta un'altra storia. Però sta in televisione come prima, sta in televisione. Si dimostrerà domenica, no vabbè, ma è un'altra cosa, guardi, io è la stessa cosa quando lo faccio io nel mio piccolo, cioè? Io a ottobre ho avuto elezioni regionali, io non ero candidato, ho cercato di spingere gli altri candidati, ma se non sono io la gente non mi riconosce. Cioè c'è il fattore Biancofiore, dice. Beh, in Trentino Alto Adige sicuramente, questo ve lo posso assicurare, basta guardare i voti, insomma, lo storico è il Ministero degli Interni, non è che se ne sente Michela Biancofiore nell'archivio storico delle elezioni. Ma se vince Grillo, lei che fa? Un'Italia governata da Grillo, lei scappa dall'Italia? Ma insomma, c'è da avere un po' paura effettivamente, ultimamente c'è da essere preoccupati, perché per come dicono loro, cioè loro vorrebbero mettere in galera tutti, compresa me, che ripeto, non ho mai rubato neanche una caramella. Un processo niente, ai quindi, politici, insomma, un processo. Mi lascia proprio molto perplessa, qual è il processo? Il processo è quello proprio dittatoriale della censura preventiva, dell'appartenenza, per cui della fazione. Andrebbe via dall'Italia. Violenza. Andrebbe via dall'Italia. Beh, io veramente dall'Italia ci vorrei andare via da tanto tempo, poi purtroppo il fatto di essere classe dirigente di questo paese... Ma come vorrebbe andare via? Che vuol dire vorrebbe andare via? Perché vorrei andare a vivere, io ho altri sogni nella mia vita. Dove vorrebbe andare a vivere? Oltre che occuparmi soltanto di politica, insomma. Dove vorrebbe andare a vivere? Ha scritto un libro. È una bella isola caraibica con tanto sole e tante cose belle, pure e serie. Un uomo magari, con un uomo magari, nell'isola caraibica. Un uomo è meglio ovviamente, però al momento anche con la mia paghia andrebbe bene lo stesso. Cioè vorrebbe scappare in un'isola caraibica, magari ce la manda Grillo in un'isola. Scappare, scegliere una vita diversa, perché questa non è politica, questa ormai è violenza, questo è tutto quello, il contrario per il quale io 20 anni fa sono scesa in campo. Beh, ma violenza, dai. Una volta che è nell'isola caraibica, come fa lei lì a portare il verbo di Berlusconi nell'isola caraibica? Quelli se ne fottono. Che ne sa, se vado a vivere a Cuba farò forza Cuba. Esistono i Forza Cuba è meraviglioso. Faccio la rivoluzione liberale a Cuba. Forza Cuba è straordinario. Facciamo Forza Cuba, le prego. Faccia Forza Cuba. Nel mio futuro ci sia a scrivere libri invece che fare politiche. Forza Cuba, io voglio Forza Cuba. Mi sono entusiasmato per questa idea. Adesso mi è partita la brocca per questa cosa qua. Voglio Forza Cuba. Lo sogno fin da piccina, quindi. Ah, quello di fare Forza Cuba. No, di fare Forza Cuba, quello da Forza Cuba. Parte. Ero piccina anche allora, perché bello, avevo 23 anni Cuba. Quando sono scesa in campo con Berlusconi. Voglio fare Forza Cuba, appoggio quest'idea, Forza che Cuba. Io amo paradossalmente pure di montagna, o il mare in una maniera spasmodica, quindi Forza Cuba. Deserta con le palme. Facciamo Forza Cuba, l'arrestano dopo un giorno, secondo me, dopo un giorno ma che no, va. No, ma no, Castro sa che io ho simpatia per Cuba, quindi. Come Castro sa? Com'è possibile? Ma manco la conosce. Per l'isola. Perché conosce Castro lei? No, non lo conosco personalmente, ma chi per lui, insomma, ecco. Chi per lui? Ma dai, Forza Cuba, chi? Meraviglioso. Io parlo sempre bene dell'isola, ovviamente parlo da un punto di vista dell'ambiente panoramico e via discorrendo, del mare, delle spiagge. Beh, eccetera. Adesso con tutto il rispetto, se anche il grande rivoluzionario Fidel Castro è a conoscenza, ma senza nulla togliere, dell'onorevole Biancofiore, beh amici miei. No, lui allora non è, lui non lo è, ve lo posso assicurare, lui non lo è, ma qui per lui probabilmente sì. Quindi. Chi per lui, ma che vuol dire chi per lui? Ma che vuol dire chi per lui? Per lui, no, ci possono essere conoscenze in comune, no? Cioè lei ha conoscenze in comune con Fidel Castro. Dai, su. No, assolutamente, ho detto già di no, che non ho assolutamente nessuna conoscenza diretta. Senta, ma le dentiere, la questione delle dentiere, per esempio, non è della dentiera, l'ha spiegato 1000 volte. Ma come no? Dovete ridicolizzare cose che vengono fatte in paesi ma l'ha detto lui come la Svezia. non parla di dentiere, parla di impianto dentario, che è una cosa diversa. Ha parlato anche di dentiere, No, non ha mai parlato di dentiere. Questa Ma come, è una invenzione giornalistica e mediatica. Lui ha sempre parlato di impianto dentario. Vabbè, ma perché uno deve parlare di denti? E che lo Stato dà gratis anche in Svezia, in Finlandia, ovunque, nei paesi civili del nord Europa, dove praticamente i vecchietti che non se lo possono permettere gli viene regalato l'impianto a vita dentale. Ma anche adesso uno se lo può permettere, se non se lo può permettere gli fanno l'impianto, su, ma dove li troviamo i soldi Dove li troviamo i soldi? Ma come dove li troviamo? Li troviamo per gli 80 euro, fasulli, figuriamoci se dove li troviamo. Io li troverei subito, guardi, basterebbe, come dire, cancellare subito due o tre cose in questo paese, fare la spendere invece che mettere le macchinucce su eBay. Cioè lei farebbe meglio gli appalti pubblici che costano 60 miliardi l'anno di corruzione e in totale all'anno ci costano 235 miliardi. Ma lei farebbe meglio del ministro dell'economia? 235 miliardi. Lei farebbe facciamo il project financing con i privati, poi vediamo dove finisce la corruzione e dove finiscono i soldi. Cari miei, ci sarebbe ma lei farebbe un attimo confrontarmi col signor Renzi oppure ma lei farebbe sarebbe in grado farebbe meglio del ministro dell'economia? Io? No, però avrei sicuramente più visione politica di lui. D'altronde, guardi, per fare politica bisogna avere visione, non è che bisogna avere conoscenza dettagliata. Io non sono un economista, però le dico una cosa. Kohl, se non fosse stato Kohl, non avrebbe riunito le due Germanie. Se l'avesse fatto di Kohl, ci fosse stato un tecnico tedesco, non avrebbe mai riunito le due Germanie. Il politico deve avere visione, c'è una bella differenza tra il politico e il tecnico, e si è visto anche in questi anni. Lei ha detto farebbe meglio, del ministro dell'economia, farebbe meglio. Ma non dite cose che poi fate uscire sulle agenzie. Ma no, ma qual agenzia? Dico che io sicuramente avrei più visione politica. Ho capito, cioè, ma che vuol dire? Ergo, due punti: vedere quello che è l'interesse dei cittadini, sentire la pancia dei cittadini, mettersi nell'idem, sentire con i cittadini di quanto lo ha Padoaschioppa o Padoaschioppa è morto, quello è morto, correndo, insomma. Senta, Padoaschioppa peraltro non aveva insomma una visione un po' curiosa. Che in che senso, scusi? Beh, disse le tasse sono bellissime. Ah, perché disse che pagare le tasse è bellissimo, che fu una puttanata inaudita, dai. Su, no, cioè. Disse le tasse Bamboccioni, che è bellissimo pagare le tasse. Beh, insomma, queste cose qua. Vabbè, i grandi tecnici. I Bamboccioni non aveva torto, I Bamboccioni non aveva torto sui ragazzi italiani, dai. Sui ragazzi italiani non aveva. Andiamola a chiedere al 43% di disoccupati giovani che vorrebbero andare. Sui Bamboccioni non aveva torto, dai. Sui Bamboccioni non aveva torto. Diciamo che non hanno torto i giovani a lamentarsi di questa politica che non dà risposte. Vabbè, ma quello. Senta, ha visto un po' di arresti dalle parti di Alfano? Un po' di arresti dalle parti di Alfano? Mi verrebbe da dire un paio di cose su questo, però poi insomma. Diciamole perché. Mi sembra che tutti quelli che hanno interessi che vanno oltre seguono, diciamo così, chi ha la poltrona di governo, ecco. Cioè lei dice che con Alfano ci sono andati tutti. Diciamo che gli affari e il potere vanno molto d'accordo, ecco. Alfano, vabbè, il potere lasciamo per voi, diciamo. Alfano il potere, ma avete un tizio. No, Alfano il potere, questo lo state dicendo voi. Ho detto che gli affari e il potere gli affari vanno molto potere. D'accordo. Meglio che gli affari seguono il potere. E questo mi sembra che si stia. Vabbè, pure dentro Forza Italia. Dentro... Questo, diciamo, detto da voi, qui è il bue che dà del cornuto all'asino. Comunque ha sentito la attenzione, non attenzione. Gian Stefano Frigerio era fuori da Forza Italia da anni. Ma dice che è un ufficio. Qualcuno dice che è un ufficio a Forza Italia a Roma. Tanti anni fa, quando faceva il segretario del PPE, questo me lo ricordo anch'io, quindi ma aveva un ufficetto che dove lui lo metteva. Io personalmente, che basico in Forza Italia da solo 20 anni, non l'ho mai incontrato personalmente. Credo di essere stata per sbaglio una presentazione di un suo libro sull'Europa una volta, ma non l'ho mai neanche stretta la mano. Quindi comunque il ministro Lorenzin ha detto che Marina Berlusconi in 18 anni non l'ha mai vista fare politica, mai. Le ho già risposto ieri, ci credo. Inizia adesso, eventualmente, se inizia, perché nessuno lo sa, fare politica in 18 anni ha creato sviluppo, produzione e lavoro per gli italiani. Quindi che non so, perché mentre mi piacerebbe che chiedesse al ministro Lorenzin che cosa ha fatto lei in Inghilterra. Vabbè, lei dice aver ottenuto delle risposte. Lei ha fatto solo parole, insomma, ecco, nient'altro. O blandizie in giro agli ultimi. Blandizie, chiaro. A tutti i capetti che si sono succeduti all'interno di Forza Italia fino ad attaccare, come dire, il cappello su Alfano, e lì gli è andata piuttosto bene. Ha attaccato il cappello su Alfano. Però io volevo chiedere una cosa: ma tra Marina Berlusconi e Lorenzin non c'è paragone? Stiamo parlando di due. Cioè... No, ma la Lorenzin probabilmente si sente lei una statista, e ce l'ha con Berlusconi perché non ha riconosciuto in lei la statista. Insomma, come ho già dichiarato ieri, insomma. Credo che ci sia una differenza abissale. Io conosco bene Beatrice, sì, perché è stata la mia compagna di scranno per anni, e per carità è una ragazza anche che studia, che si applica, però... che ha sicuramente grandi ambizioni, cioè, paragonarsi ad una manager internazionale come Marina, riconosciuta, sì, internazionalmente, una che ogni giorno, certo, produce veramente posti di lavoro, produce lavoro, produce sviluppo per il nostro paese, certo, ed è, dà lustro ad un'azienda che è all'occhiello del nostro paese, credo. Ma fanno due mestieri diversi, che c'entra? Sì, è proprio banale, ma Beatrice non ha mai fatto nemmeno politica, ragazzi miei, non ha mai preso un voto Beatrice, aveva preso 1000 voti al comune di Roma, ma adesso di che vediamo, parliamo? Ci sono le europee. Ma di che parliamo? Adesso un'altra cosa, ma da ministro è facile farsi la campagna elettorale, parliamoci chiaro, da ministro è meritato, perché ragazzi miei, quella ragazza fa secondo il ministro per l'indicazione di Alfano con il beneplacito di Berlusconi. Berlusconi purtroppo è sempre fin troppo gentile, fin troppo rigoroso, sì, nel suo modo di essere, e ci ritroviamo una persona che non ha particolari meriti. Senta, ma secondo lei Berlusconi, e che non ha particolari consensi politici, anzi zero consensi, sì, politici, adesso sicuramente ne avrà di più perché pare, ribadisco, la campagna da ministro è un'altra cosa che parla, sì, da semplice persona che avanza, insomma, che mette la faccia in politica, e quindi insomma. Ma Berlusconi secondo lei potrebbe essere in grado di fare il Papa se avesse deciso di studiare dai Salesiani, perché ha fatto questa battuta, cioè sarebbe in grado secondo lei? Come dicevano le sue zie suore, come sapete, sarebbe stato un bel cardinale, Papa non lo so, però sapendo che gira quella bella barzelletta di, che conoscono ormai tutti, credo, in qual Italia, è? Di Berlusconi e Gesù Cristo che si appartano con la contrarietà di Simon Pietro, che, sì, e che una volta, dopo tante ore, di solito Gesù Cristo cede pochi minuti di udienza a chi sale in paradiso, invece ne esce con Berlusconi abbracciato dopo ore e ore, e parlando verso, rivolgendosi a Berlusconi, dice: va bene Silvio, ho capito tutto, mi piace questo paradiso SPA, però una sola cosa non ho capito: perché io vicepresidente? Dunque secondo lei vuol dire, poteva fare anche il Papa, diciamo la verità, se avesse scelto quella strada sarebbe io diventato, vorrei che facesse il presidente della Repubblica, vabbè, quello, in questo paese, vabbè, quello è un po' difficile, io sono convinta che sarà scagionato, però se avesse, che se avesse scelto nella vita le cose, vabbè, tornano, ma è ormai, ma se avesse, soprattutto quando ti sei comportato, ma bene, se avesse continuato, quando hai la coscienza, se avesse politica, continuato a studiare magari la conversione, poteva diventare Papa, ha le caratteristiche, beh, per fare Papa o no? Non lo so, ma sicuramente, dai, sicuramente sa predicare bene, poi è chiaro che magari è un po' discolo sotto altri punti di vista. Ah, ecco, so, ecco, però, ecco. Vabbè, grazie, a però presto. Non mi sembra che i prelati in generale siano proprio così integerrimi. Anche loro, dice, anche loro con le donnine, con le cose. Non lo so, però insomma non mi pare che dalle cronache emergano persone particolari. Anche i preti sotto sotto, no? Quelli. Anche i preti sotto sotto gli danno giù. L'umanità, non è che i preti, è l'umanità. Beh, i prelati. Vabbè, a presto, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qui con Giuseppe D'Avasto. Buonasera, Giuseppe. Ehi, dottor Cruciani, buonasera. Oddio, come è arrivato pure questo. È arrivato pure questo. Cruciani. Si è presentato come Giuseppe D'Avasto, quest'altro rincoglionito. Su, dai, avanti. Ma Cruciani sta delirando? Io sto delirando. Sei sempre il solito, da Chieti. Come ti chiami? Come ti chiami D'Avasto, sul serio? Basta. Sì, D'Avasto, mio nonno. D'Avasto. Stasera, sì, stasera ha dimostrato, sì, che oltre a essere decaduto in, sì, basso, è irrecuperabile, no? E sa perché? Ma glielo spiego. Lei, da grande luminare, grande divulgatore scientifico, sì, con una laurea che ha preso col CEPU in Albania, cioè si è ridotto a parlare, sì, se il suo pappagallo, sì, col cervello fritto, no? Sì. Sì, se Albania, sì, ha fatto i liquidi oppure il solido. Beh, ha fatto partire lo sciacquone, a un certo, sì, punto mi sono interrogato se aveva fatto... E allora... Capito? Cioè, lei vedi, in questa radio, Radio 24, cioè solo questo può fare. Aspetta, Giuseppe, aspetta. Stia lì. Giuseppe D'Avasto, aspetta. Ecco, stia lì Giuseppe, stia lì fermo, eh? Sì, sì. Oh, hai messo Giuseppe D'Avasto nello sciacquone? Cruciani, eh. Oh, ma lo dico, dove l'ha presa la laurea? Chi, io? Beh, in quella specie di termitaio infernale che era la Sapienza di Roma, cioè una roba indegna. Oh, alla Sapienza. Cioè, ma sono affari miei, perché le interessa questa cosa? Ma professor, quando lo sentono parlare, cioè dici, ma abbiamo dato la laurea a un... Ma cioè, non so come definirlo, cioè ormai è recuperabile. Ma anche mia madre lo dice, Giuseppe, ogni tanto mia madre mi dice: hai visto? Ti ho fatto studiare, poi alla radio dici le parolacce, ecco, eccetera. Cioè, non è il primo, insomma. Diceva, guardi, le do un consiglio. Non sei originale, amico. Giuseppe, ti do del tu, non sei originale, Giuseppe. Non sono originale. No, non sei originale. Io mi ricordo che quando a lei le davano del tuo, si incazzava. E invece adesso ho cambiato, problemi? Ah, quindi è entrata. Io prendendo il lei non l'accetto. E io invece do il tu. Oh, bravo, bravissimo. E allora? No, dicevo. Niente, non è più niente da dire. La realtà è che non è più niente da dire. Questa è la realtà. Non è più niente da dire. Acquiani, ha decaduto. Ancora, dici sempre le stesse cose. Chiami per dire le stesse cose. Cruciani, chiami per dire le stesse cose. Cioè, attendici che non si prende, cioè lei che è esperto di, cioè c'è andato sta settimana alle sue amiche là. Ma quali amiche? Ma di che cosa stai parlando? Ma di che stai parlando? Di cosa stai parlando? La zona di Pescara, là. Ma quale zona di Pescara, la Pineta? Ma stai delirando? Cioè, non è più che ci va spesso. Ma io non vado spesso alla Pineta a Pescara, ma di che parli, Giuseppe? A Cruciani. Vabbè, questo qua non c'ha più niente da dire, sta delirando. No, ma questo è curioso, questa roba di Pescara però. Giulio, ma curiosa cosa? Giulio da Milano, questo è un poveraccio, dai, Giulio da Milano, ma questo qua le notizie. Dimmi, le notizie. Giulio, dimmi. Siete molto simpatici, anche quando ogni tanto col dottor Parenzo non sono d'accordo. Allora, volevo parlare di una cosa in due temi rapidamente. Dimmi. Il primo riguarda strettamente Milano, cioè io spesso mi trovo a passare dalla zona della stazione centrale. Sì. E ai semafori ci sono sempre quelli che o ti chiedono l'elemosina o ti devono vendere qualcosa, sì, ti devono lavare i vetri. Oggi, cioè, praticamente è uno stato di assedio costante, perché devi, arrivi lì con l'ansia di... Capito, Parenzo? Chiudere le portiere. E oggi praticamente sono arrivati in tre verso... Io ho fatto segno che non avevo bisogno, la mia macchina era pulita. Fregandosene, mi hanno lavato il vetro dietro, perché quello davanti avevo mosso il tetto di cristallo, poi mi hanno lavato anche quello davanti. Io poi ho detto: non vedo niente, vi avevo detto che era pulito. Vabbè, allora cosa fa? Uno mi ha insultato e l'altro mi ha rigato la portiera. Capito? Queste sono le istituzioni del cazzo italiane, che non invece tutelare gli italiani sono extracomunitari. Io sono stato corretto, Ma che c'entra, che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni vuol tanto... Vuol dire che le istituzioni non fanno niente per tutelare noi italiani. Hai detto bene, ogni tanto tra questi qui si annidano anche delle persone che sono dei criminali, certo, potenzialmente un po' violenti. Certo, non in generale... Le istituzioni, queste persone dovrebbero allontanarle. Ma cioè, cosa vuoi fare? Ma devi cominciare... Bene. Ma questi qui, il più delle volte, questi ti puliscono il vetro, gli dai 50 centesimi... Ma 50 centesimi ogni angolo come faccio? Cioè, non ma non ricco. Li dai a tutti, ovviamente, però... Ma quello che non lo fa ti riga la macchina. A me sinceramente non è mai accaduto che uno mi abbia rigato la macchina, perché no. Io gli dico no, perché non li voglio nemmeno vedere questi qua che puliscono. Ma scusami, ma vuoi mettere un'altra cosa straordinaria? La bellezza di questi qui che ti vendono gli ombrelli quando piove nelle città. Non è quello, c'è il problema che siamo invasi, cioè ogni giorno arrivano migliaia di immigrati invasi. Non siamo invasi che dal vostro cervello fino, siamo invasi purtroppo dal cervello fino di chi pensa che questi qui siano il male del mondo. Certo, ma infatti, perché la delinquenza, se leggiamo i giornali, quasi tutti i reati sono... Ma quale delinquenza, che basta che vedi in Parlamento quanti sono gli indagati? Ma quello non c'entra, quelli sono 900, gli immigrati sono decine di migliaia. E poi il fatto che come mai in Svizzera adesso li mandano tutti via? Ma in proporzione sono molti di più quelli che siedono in Parlamento che non quelli che sono agli... Ma sono dire puttanate, non è un paragone, quelli sono in più, gli immigrati sono in più. Non dire puttanate, dai. Cominciamo a colpire i politici e poi pensiamo... E poi comunque cioè sono due cose che si sommano. Vabbè, ciao. Ah, voglio dire un'altra cosa. No, ciao. Le zanzare, fanno male, ma lo fanno, per amore. incantesimo. Oh, anzi, andiamo Francesco da Venezia. Francesco da Venezia, dimmi. Ciao, ciao, buonasera a tutti. A te anche quella gallina padovana che hai a fianco. Vai, vai. Ma non dici nulla del tuo amico. Quale puro è il mio amico? Puro che si è calato le braghe. Chi? Andando da Vespa. Ma non è il mio amico Grillo. Non è mio amico Grillo. È il tuo amico, sì, l'hai votato, l'hai votato. E allora che c'entra? Perché l'ho votato, è mio amico, c'entra. Ma che dici? No, c'entra, c'entra. Ma cosa c'entra? Non c'entra nulla. Quelli che non mantengono le promesse. Quelli che vince il territorio di Parma. Quelli che la controllano le bugie. Ma non lo dite, non evidenziate questo problema che è un bugiardo. Ma senti, abbiamo detto che prima ha scritto delle cose negative qualche anno fa su Vespa. Ma non è la stessa cosa, i toni non sono mai gli stessi. I toni non sono mai gli stessi. Che vuol dire i toni non sono mai gli stessi? Perché bisogna dare il peso alle parole che voi non date. E allora? Allora, ma non ti sembra una cosa abbastanza rilevante? Cosa? Che una persona promessa delle cose cacci dei suoi... Allora, Grillo nel 2008 ha detto Vespa è un danno per il paese e per l'informazione libera, deve spizziamo la RAI a partire da questo insetto, 2008. Nel 2013 scrisse, sondaggio sulla fazione, c'è stato un sondaggio online, Vespa vince il microfono di legno e lui il più fazioso. Questo è successo. Dopodiché... va benissimo tutto, ha parlato male anche della 7 a un certo punto, eppure è andato alla 7, ha parlato male di Rai 3, di Greco e poi si è fatto intervistare da Agorà, è così, bastone e carota, non vedo il problema francamente. No, deve semplicemente mantenere un personaggio, fine, non è che bastone e carota, usa i mezzi di comunicazione come gli pare e piace e questo è bravissimo. Un attimo solo, fermo, senti questo, senti questo. Morganti? Sì? Buonasera, Cruciani, come stai? Bene. Beh, senti, io voglio capire, hai scritto una cosa terribile su Facebook, o sbaglio? Orribile, è stata interpretata male. Ma come è stata interpretata male? Scusa, Morganti, hai scritto nuovo omicidio nella Chinatown pratese, strangolata una cittadina cinese. Visto che i controlli non hanno prodotto i risultati sperati e la comunità cinese è aumentata del 50% negli ultimi 5 anni, l'unica speranza per una diminuzione dei cinesi a Prato è che si ammazzino tra di loro. Non c'è molto da interpretare, mi sembra, caro. Ma io il discorso è che il lassismo del comune, del governo, che lascia da solo i cittadini di Prato, soprattutto in alcuni ghetti dove ormai i pratesi sono nelle riserve. Vabbè. E vivono nelle riserve, quelli totalmente abbandonati, se visto che il loro desiderio è quello di vivere un po' meglio e di avere meno cinesi e meno degrado, visto che il governo non fa niente, devono sperare solo e soltanto che i cinesi si facciano fuori da sé. Beh, ho capito, però se uno dice, scusami, Morganti, tu sei stato deputato europeo, sei ancora per qualche giorno deputato europeo della Lega Nord, e poi hai avuto dei problemi con la Lega, sei uscito dalla Lega, o t'hanno cacciato, non mi ricordo. Adesso sei anche candidato per la lista, quella Io Cambio, dove c'è anche Pannoni, eccetera, se non sbaglio, no? Sì, allora, uno come te, se scrive su Facebook una persona che, ripeto, è ancora al Parlamento europeo, l'unica soluzione è quella che si ammazzino tra di loro, uno che cosa deve capire? È vero che probabilmente non ti auguri la strage dei cinesi, o sì? Ma assolutamente no. Ho capito, però uno quello capisce. Oggi sono rintervenuto a spiegare, io non voglio la violenza, non auguro la morte a nessuno. E però scrivi che si devono ammazzare tra di loro. Sono uno tra i più attivi contro il femminicidio. Vabbè, che c'entra il femminicidio adesso? Che oggi un governo che... E le istituzioni che abbandonano dei cittadini in della zona come via Pistoiese. Va bene, d'accordo, dove... però Morganti, questo possiamo anche essere d'accordo, poi si può discutere lo Stato che abbandona i cittadini, ma tu hai detto che a questo punto l'unica soluzione è che i cinesi si ammazzino tra di loro. Parenzo, di qualcosa anche te. No, ma infatti io ti ho detto, guarda, questo non c'è giustificazione, è una cosa agghiacciante. Perché non solo l'auspicio arriva dopo un fatto di cronaca, e già questo la dice lunga su un politico che è costretto a commentare un fatto di cronaca per racimolare su due voti, che la trovo una cosa veramente... La fate solo sul discorso dei voti voi. Ma vabbè, è una critica che si può fare, però. Perché no? Ma perché non, non prendi casa, vieni via via Pistoiese fuori? Perché voi non ci vivete in via Pistoiese. In via Pistoiese non ci vivete, quindi non potete capire. Ma perché non venite a fare una trasmissione in diretta da via Pistoiese? Fai parlare Morganti, Parenzo. Che deve fare Parenzo, se vuole capire qualcosa, prendere un'abitazione lì? Allora, perché no? Un'abitazione venga in affitto in via Pistoiese, sono sicuro che dopo 3 ore lui se ne va. Dopo 3 ore se ne va. È diventata una situazione invivibile tra il puzzo di fritto, il degrado, il problema dell'igiene, tutto abbandonato, vivono solo cinesi, i poveri pretesi non hanno più la loro città. E dunque è meglio a questo punto che si sparano. Ma che non li sparano? Io ho solo detto che se il governo interviene e fa e lo Stato fa rispettare le regole, perché in una situazione straordinaria, vuole un intervento. Ma non puoi scrivere, Claudio, non puoi scrivere che è meglio che si ammazzino tra di loro, perché a questo punto uno. Allora tu sei contento quando si ammazzano? Sì. Ma io non è che ho detto sono contento, questa è non è un augurio, è una conseguenza. Perché la gente esasperanza dice, se tu li senti al bar ti dicono qua è l'unica speranza è che questi si ammazzino da sé, almeno ce n'è meno. Cioè tu dici io ho interpretato quello che dicono i pratesi, certo, al bar, certo. Rosa, rosa, rosa. Non dica così, per favore! Non mi tratti così, Cruciani! Rosa, brucia proprio addosso a me. Non mi contraddica, Cruciani, non mi contraddica! Allora, siamo sempre con Claudio Morganti, ex leghista, oggi candidato al Parlamento europeo per la lista che si chiama Io Cambio, caro Parenzo. Ma il quale. Perché non ha fatto una lista addirittura via Musigialli, ad esempio? Era più efficace a quel punto. Morganti, ci sta questa cosa qua, però. Ma scusa, ma cosa c'entra via il simbolo via Musigialli? Ripeto, no. Questo è. Guarda, che se si fa un referendum tra i pratesi, cioè effettivamente ci sarebbe la maggioranza che vorrebbe i cinesi via da Prato. I cinesi via da Prato, ma danno un sacco di lavoro i cinesi a Prato. Chi lavora al posto dei cinesi? Morganti, su. Ma dove lavora? Cioè, ho capito, portano un po' di soldi pure. Al nucleo industriale, a quei pochi, oppure a coloro che hanno smesso di fare impresa per vivere di rendita con affitti, spesso e volentieri con l'aggiunta al nero per non andare a fare controlli. Vabbè, comunque, su, via, dai. Lei non si è pentito? L'illegalità a Prato vive bene e vegeta, fa comodo a tanti e nessuno lo dice. Lei non si è pentito di quella frase che ha scritto? No, perché io non volevo assolutamente la violenza e augurare la morte. Ho capito, come no? Io ho solo detto che quando c'è uno Stato che non controlla, viene totalmente l'unica soluzione, i cittadini, alla fine l'unica conseguenza è che sperare che questi si ammazzino da sé o se ne vadano. Beh, ho capito, no, si ammazzino da sé, lei ha scritto, se ne vadano è un altro discorso. Vabbè, se si ammazzino da sé, dove non c'è controlli, dove vive l'illegalità non se ne andranno mai. Parenzo? No, ma adesso, mettersi a discutere con questo qui è anche ridicolo. Ma vada fino in fondo, non c'è controllo, è lo Stato che ha le colpe, mica i cinesi, primo. Allora. Secondo, molti pratesi hanno venduto. Sto dicendo io? Le istituzioni, l'ho detto lei dice, a questo punto, è meglio la soluzione che si uccidano tra di loro, che la trovo una cosa agghiacciante. A questo punto, lei faccia in questi ultimi giorni... Ma allora non è che ho detto faccia meglio la soluzione, ho detto che è la sua conseguenza. Cioè che manifesto dovrebbe fare? Mi dia retta. Per avere meno cinesi devono sperare che si facciano fuori da sé. Aridaie, Parenzo, che dovrebbe fare? Prato, con l'immagine di Prato, tutta Prato sommersa da involtini primavera e sotto scrive via i Musigialli. Faccia così. Ecco. Vabbè. Ciao Morganti, a presto. No, io invece ti invito qua a Prato, vieni a via Pistoiese, magari andiamo in un bar lì e facciamo un collegamento da lì. Vabbè, ciao, a Prato ciao Morganti, ciao. Ora, Grillo ha appena detto che il comunismo era una buona idea, una cosa bellissima, ma è morto perché è stato applicato male. Ma tu ti rendi anche conto? Anche ieri l'ha detto. Io non ho sentito ieri. Sì, l'ha detto pure la Vespa. Tutto. Ieri l'ha detto da Vespa. Sì? Non ce l'abbiamo sto pezzo da Vespa, no? Quando tutto dai, su, il comunismo è una cosa bellissima. Di che stiamo parlando? Dai, beh, l'idea su. Non era sbagliato. Ah, perché a te piaceva il comunismo? Allora, sei proprio comunista dentro. Ma quale idea? Ma quale idea? Ma di che parliamo? L'idea comunista, una porcheria terribile. Ma l'idea di regalare una libertà diversa da quella americana. Ma non smettila, era... ma quale idea sbagliata? Quale idea giusta? Di dare ma quale idea? Una libertà diversa da quella americana. La libertà diversa da quella americana. Stai parlando del comunismo? Oh, ma non sto è che stai parlando. Stai parlando del comunismo. Sei veramente ignorante. Sto citando Giorgio Gaber della ma canzone quale? Qualcuno ma era che comunista. Me ne frega di Giorgio di Giorgio quando Gaber diceva per descrivere il comunismo e che è la Bibbia qualcuno... Giorgio Gaber che è la Bibbia. No, ma è una bella immagine per darti l'idea di quel che penso io. E Gaber diceva qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. E invece ve la siete presa in quel posto. Pensate, ma non ve la siete niente. Ve la siete presa in quel posto. Ve la siete presa in quel posto perché non è forme di comunismo, sono il comunismo di Tito, di sì, Jugoslavia, diverse forme di comunismo italiano. Tutte dittatoriali, chissà perché, tutte dittatoriali. Ma quello italiano non mi sembra quelle, dittatoriale. Per un lungo periodo volevano a la dittatura. A me sembra che la Costituzione italiana sia firmata da un signore che si chiama Terracini. Sì, ma per un lungo periodo volevano la dittatura. A me sembra che la Costituzione per un lungo periodo comunista. Erano pappa e ciccia coi comunisti, coi sovietici, pappa e ciccia, pappa e ciccia. Se mi guardi, ti giuro, mi confondi, mi sento respirare. Questo non è un partito che va a sostituire un altro partito, è una specie di sogno, è un piano B. È un piano B, è fallito il comunismo perché è stato applicato male, Berlinguer e via dicendo. È fallito questo capitalismo, non perché sia applicato male, perché è questo. Poi arriva il Movimento 5 Stelle e risolve tutto. Il Movimento 5 Stelle sono cittadini come questi, sono cittadini come noi, anche tu. Ma sei un cittadino. Eh sì, nel mio piccolo anche no, io sono non cittadino. Deleghiamo più nessuno. La rabbia è questa, basta delegare a un politico allora, che fa i suoi interessi. Su capitalismo ha fallito, ma delle cose assurde, cioè senza il capitalismo Grillo non sarebbe nulla. Ma l'hai votato tu, ma Grillo, cosa c'entra? Ma cosa vuol dire, scusa, non ho capito, perché uno ha votato una persona allora deve essere d'accordo ma su tutto? Ma che è una roba incredibile, sei veramente un ma perché idiota, uno deve essere d'accordo su tutto, non hai ho capito. Votato uno che, su tutto, hai votato uno che pensa questa roba. Ho capito, ma quando dice questa roba dice delle stronzate, secondo ma me. Ma è proprio lui che è così, è quel movimento che è così. Vabbè, Giovanni dalla provincia di Milano, dai, non c'è Francesco da Bergamo. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Ma perché dovete sempre ridicolizzare chiunque abbia idee contro l'immigrazione? Dovete sempre buttarla in cacciara, non dare un minimo di credito a chi ha un'idea diversa sull'immigrazione. Idea diversa quale sarebbe, scusi? Beh, è un'idea diversa da quella politicamente corretta che impera in televisione, per esempio. Ma quale sarebbe l'idea diversa? Francesco, me la spieghi? L'idea diversa è quella che esprimeva quel candidato di Prato poc'anzi, per esempio. No, ma quel candidato di Prato può avere tutte le idee sull'immigrazione e posso anche trovarmi d'accordo su alcune cose, ma ha detto, ha scritto una cosa una un cosa po' scioccante, forte. Che okay. È meglio che i cinesi si ammazzino tra di loro, può darsi pure che alcuni cittadini di Prato siano esasperati e possano pensarla così, ma non mi sembra una soluzione la sparatoria tra i cinesi in modo che si ammazzano. Sicuramente, vengono... ma il vostro atteggiamento come esattamente che è quello di tutta Radio 24 è continuamente denigratorio contro chiunque abbia idee diverse sull'immigrazione, cioè nel no, paese, guardi Francesco, prima... Francesco, fosse per me ci sarebbero le navi da guerra davanti alle coste italiane. Perfetto. Le navi da guerra, fosse per me, allora? Ci sarebbero le navi da guerra, le navi da guerra davanti al territorio italiano, ha capito? Io andrei allora, a colpire le navi quando partono, Borghezio? Andrei a colpire e bombardare le navi quando partono da lì, colpire così, se no a che serve l'esercito? Ad affondare le navi, non con la gente dentro, ovviamente, quando ma partono allora da lì. Ridicolizza continuamente. Ma ridicolizzo quelli che fanno quelle macchiette, ridicolizzo le macchiette, le cose macchiettistiche, ha capito o no? Ma non c'è, guardi, io francamente in quello che dice Borghezio non tutte queste macchiette, ok, lui ci gioca un po', ma francamente penso che molte delle cose che dice sono condivise da milioni e milioni di italiani. Ma questo non lo so, milioni e milioni di italiani no, so solo che un sacco di italiani non vogliono l'immigrazione clandestina incontrollata. Guardi, c'è molta gente che magari non voterà Lega domenica, secondo me sbagliando. Sbagliando. C'è la possibilità di sbagliare, no? C'è la possibilità che altri votino un altro partito, o sbaglio? No, certo, benissimo, ma condivide le idee sull'immigrazione dette dai Borghetti, dai Salvini, eccetera, eccetera. Magari vota un altro partito per altri motivi, vabbè, ma quell'idea di immigrazione è condivisa da, secondo me, decine di milioni di italiani. Vabbè, decine di milioni di italiani mi sono un po' troppi anche per gli abitanti dell'Italia. Massimiliano da Roma, buonasera. Sì, Massimiliano, dimmi. Eccomi, nulla, volete veloci. Sì, dimmi. E allora, per quanto non si sente una mazza, Giuseppe D'Avellino, dai. Pronto? Dimmi. Cruciani. Sì, vai. Madonna mia. Cruciani, allora, parola d'ordine sulla questione Grillo, Berlusconi, Vespa, le cose. Pompini è la parola d'ordine, perché c'hai partiti dove se io faccio un pompino a un altro mio collega, allora siamo bravi tutti quanti e si fa la campagna elettorale a chi è più bravo a farli. Poi c'hai un gruppo di gente che lavora in un'altra maniera, che porta come portavoce uno che fa il comico, che non dice fate i pompini agli altri, oppure io sono bravo a farli, oppure gli altri sono ma più sai che non ho capito che stai dicendo? Cioè sarò cretino io, ma non ho capito quello che stai dicendo, me lo spieghi meglio? Te la rispiego. Ecco, allora, spiegamela bene. Allora, senza pompini. La no, anche con i pompini, ma devo capire quello che dici. Allora, quello che io vedo da elettore da fuori è questo, che c'ho dei partiti politici nei quali i rappresentanti dello stesso partito dicono quanto sono bravi l'un l'altro, ok? Per dire la Biancofiore che parla bene di Berlusconi, di Marina Berlusconi, eccetera, e sottolinea l'importanza che se non c'è una persona, quindi un singolo che rappresenta un movimento, quel movimento non va avanti, non viene votato. Lo ha detto l'esperienza. Dall'altro lato hai una situazione completamente opposta. Non si dice quanto è bravo Grillo all'interno del Movimento 5 Stelle. Ma come no? Si dice ci può servire. Ma di che stai parlando? Come si dice ci può servire. Ma di che stai parlando? Ma senza Grillo sparisce tutto, è tutto finito. Senza non Grillo è tutto morto, finito. Non ti fissare. Senti, non Giuseppe, abbi pazienza, bisogna riconoscere la realtà. No. La realtà è una sola, che se Grillo non va in piazza a fare casino, se non fa la campagna elettorale come la sta facendo, non esiste alcun Movimento 5. Ma perché uno non deve ammettere la realtà? La realtà è che se va in piazza Renzi lo fischiano, se va in piazza un qualunque rappresentante. Ma chi l'ha detto che lo fischiano? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma probabilmente il Partito Democratico. Senti, Giuseppe, io non lo voterò, ma il Partito Democratico prenderà il 30% probabilmente. Ma di che stai parlando? Di che parli? Sto parlando di un cambiamento che magari non è epocale, non è questa grande cosa che si legge o che si dicono tra di loro, ma è qualcosa che sostanzialmente, almeno nel territorio dove vivo io, ha cambiato radicalmente la maniera della partecipazione politica. Vabbè, ma è la partecipazione politica. Un vantaggio che fa la differenza tra chi deve scegliere di votare da un lato. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Pronto? Nicoletta da Bologna. Nicoletta? Sono in linea? Sì, dica. Col conduttore? Sì, sì, fino a prova contraria sì. Sì. No, niente, solleviamoci un po' da sto tormentone delle elezioni facendo una critica al conduttore. Mi dispiace sentire le prese in giro alle persone che telefonano in radio. Quando telefono un camionista che si sbaglia una preposizione, un complemento di luogo, non si può prenderlo in giro, soprattutto quando chi lo prende in giro è uno con tanto di laurea che non azzecca un congiuntivo o un condizionale neanche se glielo regalano. Sta parlando del sottoscritto? Sì, del conduttore, benissimo. Senta, signora Nicoletta, a me non mi interessa il condizionale, la consecutio temporum, io parlo come mi pare, ma non stavo prendendo in giro nessuno, figuriamoci, prendi in giro. E comunque anche se avessi preso in giro una persona, è il mio modo di condurre, le piace? Bene, non le piace? Chi se ne frega, ha capito? Adesso cambio radio, non è un problema. Ma cambi radio, ma qual è il problema? Io stavo prendendo in giro una persona, stavo facendo delle piccole battutine su alcune cose sbagliate che aveva detto, non stavo prendendo in giro nessuno. Sto facendo una battutina ma infatti su di lei che dice così buona, siamo... pari, palla al centro, si ricomincia. Pari, palla al centro, benissimo. Allora qual è il problema? Non ho capito. Io non stavo prendendo in giro nessuno, nessun camionista, sono i miei ascoltatori, figuriamoci se prendo in giro un camionista. Cioè non... Sì, sì, quello di prima. Ma che poi dipende cosa dice, dipende cosa dice. Ha sbagliato solo un... non ha messo un in dove non andava. Ma sì, ma non era una presa in giro, mamma mia come siete suscettibili. Roberto da Padova, per concludere, dai Roberto, dai. Buonasera, volevo solo fare una battuta sugli immigrati e chiedere a Parento se ha mai avuto occasione di ospitare per qualche giorno un immigrato a casa sua. Ma che c'entra adesso questa storia che dovrebbe ospitare gli immigrati a casa sua? È va bizzarra. Bene. Cioè va non bene. È obbligatorio ospitare gli immigrati a casa propria, Va bene. Ma è un modo cioè non è che se uno non ospita un immigrato non può avere un'idea sull'immigrazione. Adesso non tocca a me difenderlo, magari si difende male, non lo so. Cioè, ma non è che deve ospitare un clandestino a casa sua, per forza. Che stupidaggine. Ah no, a parte che un clandestino, io lo aiuterei un clandestino. Ma che aiuteresti? Commetteresti un reato? Vergognati. Certo, no, non è più un reato. Ma purtroppo non è più un reato. Non è più un reato, ma lo avrei aiutato. Pensa di chi sei. A domani 18:30. Amico mio, lì te lo dico da amico, è proprio così è stato. Gatta Cicova lì, è un grande coso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Telefonare meno la zanzara e farsi qualche scopata in più. Radio 24. La passione si sente. Stazioni di servizio Costantin. Carburante a prezzi bassi ad ogni ora. Vi ha presentato La Zanzara.